459. Pesce lesso. Non sarà male avvertire che si usa cuocere il pesce lesso nella seguente maniera. Si mette l'acqua corrente, non però in molta quantità, al fuoco, si sala e prima di gettarvi il pesce si fa bollire per circa un quarto d'ora coi seguenti odori. Un quarto o mezza cipolla, a seconda della quantità del pesce, steccata con due chiodi di garofani, pezzi di sedano e di carota, prezzemolo e due o tre fettine di limone, oppure, come alcuni credono meglio, si mette al fuoco con acqua diaccia e con gli odori indicati e dopo cotto si lascia in caldo nel suo brodo fino all'ora di servirlo. Con le fettine di limone strofinatelo prima tutto da crudo, così che rimane con la pelle più unita. Il punto della cottura si conosce dagli occhi che schizzano fuori, dalla pelle che si distacca toccandola e dalla tenerezza che acquista il pesce bollendo. Mandatelo caldo in tavola, non del tutto asciutto dall'acqua in cui è stato cotto. E se desiderate vi faccia miglior figura, copritelo di prezzemolo naturale e collocatelo in mezzo a un contorno misto di barbabietole cotte nell'acqua se piccole o in forno se grosse e di patate lesse, tanto le une che le altre, tagliate a fette sottilissime perché prendano meglio il condimento. Unite infine qualche spicchio di uova sode. Non facendogli il contorno, potete servirlo con le salse dei numeri 128, 129, 130, 132, 133 e 134. Si può anche mandare in tavola il pesce lesso, decorato nella seguente maniera, che farà di sé bella mostra, tagliato a pezzetti e colmato in un vassoio, intonacarlo tutto di maionese numero 126 e questa ornarla a disegno con filetti di acciughe salate e di capperi interi.